Fabio Venditti, regista del film Socialmente Pericolosi, che sarà proiettato sabato 10 febbraio al Nuovo Cinema Palazzo qui a Roma. Fabio, benvenuto. Salve, buongiorno. Per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la trama di questo lavoro. La cosa fondamentale è che si tratta di una storia assolutamente vera, che poi è la mia. Tutto nasce dall'incontro nel carcere di Sulmona con un boss della Camorra, boss che ha combattuto la grande guerra di Camorra degli anni Ottanta, Mario Savio, nel film si chiama Mario Spadoni. Io ero andato lì a fare un reportage nell'ambito del mio lavoro di giornalista su quello che veniva chiamato il carcere di Sulmona. Nasce un rapporto, anche perché lui mi chiede subito aiuto per i suoi figli, terrorizzato per la sorte dei suoi figli che volevano fare lui. E dopodiché lui accetta di raccontarmi appunto la camorra degli anni Ottanta vista dall'interno. Lui era proprio un generale di quelle truppe. E nasce, sì, scriviamo un libro pubblicato dalla Mondadori alcuni anni fa. Dopodiché lui si ammala gravemente, cirrosi epatica con quattro carcinomi. L'unico modo per farlo curare era procurargli un indirizzo per la detenzione domiciliare. Nel frattempo lui era stato ricoverato a Viterbo, quindi la giurisdizione era diventata Roma e ci siamo offerti, la mia famiglia ed io, eravamo ospitato a casa nostra per consentirgli di avere delle cure, perché era praticamente dato per spacciato. Non vado oltre perché sennò svelo una serie di cose Sì. Ecco, da questa esperienza umana al film, qual è stato il passaggio? Il passaggio è stato che ragionando su come aiutare i ragazzi di strada dei quartieri spagnoli è nato un progetto, perché c'è un modo solo, quello di fare delle cose, di insegnargli un mestiere, di insegnargli il rapporto con la società civile, perché loro sono degli esclusi, si sentono degli esclusi e si sentono in guerra con il resto della società. E così ho fondato un'associazione che si chiama Socialmente Pericolosi e ho aperto una piccola scuola di televisione, insomma, dei vari mestieri della televisione e del cinema, coinvolgendo 8 ragazzi. Questo progetto è piaciuto moltissimo all'ex direttore del TG2 Marcello Masi. Abbiamo fatto una serie di lavori per la RAI, una serie di documentari che hanno avuto degli ottimi risultati, e così proprio dalla RAI stessa è venuta l'idea di fare il film. Ci hanno proprio detto che questa storia va assolutamente raccontata, Sì. e c'è RAI Cinema anche come coproduttore. Sì. Senti Fabio, e umanamente cosa ha rappresentato per te? Mi ha cambiato la vita perché poi mi sono interamente dedicato a questo progetto. Mi sono battuto appunto per far curare Mario Savio. Ho lasciato il lavoro, ho lasciato Mediaset per dedicarmi interamente a questo progetto e ho imparato un sacco di cose. La cosa fondamentale è che la camorra si può combattere, ma in un modo solo: agendo, facendo delle cose con questi ragazzi, anche con ragazzi che sembrano irrecuperabili, invece non è vero, e bisogna prenderli presto, anche perché sempre prima, come si vede nell'attualità di oggi, questi ragazzi cominciano a fare cose terribili, no? Tutta la storia delle baby gang. Ecco, io per esempio ho imparato come si fa a contrastare le baby gang, no con le solite mandiamo più poliziotti, un poliziotto ogni 15 metri, eccetera, eccetera. Questo non serve assolutamente a niente. Si contrastano con l'educazione, si contrastano mandandoli a scuola, andandoli a prenderli per le orecchie se non vanno a scuola, si contrastano investendo sugli insegnanti, non sui poliziotti, sugli insegnanti, si contrastano insegnandogli anche un lavoro, magari anche presto, ma insomma fargli capire che esiste il lavoro. Cioè, può sembrare un paradosso, ma questi ragazzi che esiste il lavoro nemmeno lo sanno, per la storia familiare, per quello che vedono nei loro quartieri, e invece no, insegnargli un lavoro, fargli capire che se loro lavorano, se loro si impegnano, la società li accoglie e come. Loro sono convinti che questo sarà per sempre impossibile per chi viene dalla quando sento che appunto c'è la bambina che tutto quanto è polizia, polizia, polizia, divento una belva, perché è proprio la risposta sbagliata. Senti Fabio, che vita sta avendo il tuo film? Sta avendo la vita di un film del cinema indipendente, cioè quello che non può permettersi la grande distribuzione, che ormai è un lusso per pochissimi. Però sta avendo una vita lunga, perché è uscito più di un anno fa, il 24 gennaio, e va attraverso circuiti che vengono definiti alternativi, no? Sì. Tipo quello del Nuovo Cinema Palazzo, oppure nelle sedi di associazione. Adesso il 24 febbraio faremo una proiezione nella sede dell'associazione Enrico Berlinguer, nelle scuole, siamo stati in numerose scuole e devo dire che i ragazzi colgono il messaggio in maniera che ti dà grande soddisfazione, perché vuol dire che siamo riusciti a farlo passare. A questa vita qui, una vita diversa rispetto al blockbuster, però anche molto più lunga. E quindi anche questo è un risultato. Ci presenti la serata di sabato 10 al Cinema Palazzo? Sì, ci sarò io. Quello che normalmente succede quando le persone guardano questo film è che dopo fanno decine di domande, perché è un film che suscita domande, che suscita tante curiosità, che pone un sacco di questioni anche importanti, tipo l'amministrazione della giustizia, tipo l'amministrazione dell'ordine pubblico in zone come i quartieri spagnoli. Quindi poi le persone fanno un sacco di domande. Questo film è venuto bene per un motivo: ha un grandissimo cast che l'ha fatto per pura passione, non certo per soldi, se no avrebbero fatto altre scelte. I due protagonisti, i personaggi di Fabio e di Mario, sono interpretati da Vinicio Marchioni, il freddo di Romanzo Criminale, la serie, e Fortunato Cerlino, Don Pietro Savastano di Gomorra, la serie. Una prestazione spettacolare. Vale la pena di venire a guardare questo film solo per vedere loro due insieme. Poi c'è anche Michela Cescon, Bluio Scimi, Leonora Pace, insomma un grandissimo cast di persone, tutte che l'hanno fatta per amore di questa storia. Senti Fabio, in chiusura, ci sono dei riferimenti web per saperne di più sul tuo film e più in generale sul tuo lavoro? Sì, c'è intanto la pagina Facebook del film, Socialmente Pericolosi, okay. C'è il sito www.socialmentepericolosi.it e poi c'è anche la mia pagina Facebook personale. Perfetto. Dove però mi esprimo su varie cose, soprattutto su questo. Okay. Fondamentalmente mi arrabbio con la campagna elettorale in questa fase. Okay. Allora ricordiamo l'appuntamento con Socialmente Pericolosi al Nuovo Cinema Palazzo qui a Roma sabato 10 febbraio con Fabio Vendetti alle 21. Un abbraccio Fabio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie. Ciao. Tantissimo.